Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci qua ancora insieme con Roberto Scaltritti in regia e Giorgio De Luca in redazione, sesta di ritorno, e viene da dire che la coppia non scoppia perché Varese e Sassari vincono i rispettivi impegni e si mantengono in testa alla Serie A. Ma insomma, il piatto forte della domenica, non ce ne vogliono gli altri, sta per arrivare, perché alle 20.45 Forum di Milano, Milano-Siena, con tutti gli annessi e connessi, viene da dire, no? Perché è una partita che vale più dei due punti in classifica. Allora andiamo subito ai risultati, così poi andiamo direttamente sui campi. Allora, Cimbario Varese batte Juve Caserta 74-62, Scavolini Banca Marche Pesaro, sconfitta in casa dalla Trenkwalder Reggio Emilia 65-68, 63-52 il successo della Sidigas Avellino sulla Foxtown Cantù, che non riesce a trovare continuità dopo il successo di appena domenica scorsa proprio su Varese. Biella, l'Angelico Biella batte la Oknoplast Bologna 87-76. Successo anche per Roma, per l'Acea che batte in casa la Vanoli Cremona 79-71, bella vittoria della Sutor Montegranaro 88-64 sull'Umana Reyer Venezia, e poi il successo in trasferta del Banco di Sardegna Sassari sul campo dell'Enel Brindisi per 93-95. Alle 20.45 in campo e a 7 Emporio Armani Milano e Montepaschi Siena, per una classifica che vede Varese e Sassari a quota 34, Roma e Siena momentaneamente appaiate a 28, Cantù 26 punti, Reggio Emilia e Milano 24, Venezia 22, Brindisi 20, Caserta e Cremona 16, Bologna e Montegranaro 14, Avellino con 12 punti, Pesaro e Biella chiudono a quota 10. Vi ricordo che manca da giocare anche il recupero di Bologna-Avellino in calendario per il 27 marzo. Andiamo subito al Forum di Milano dal nostro Roberto Nardella, 30 secondi per le ultimissime sulle formazioni Milano-Siena. Buonasera Roberto. Buonasera, buonasera qui dal forum a tutti gli amici di Radio 24. Le ultimissime sulle formazioni: la conferma dell'assenza di Hackett per i postumi dell'infortunio nell'ultima gara di Eurolega, mentre in questo momento si stanno scaldando sia Langford, che comunque rimane in forte dubbio, che Malik Harrison, che invece dovrebbe essere della partita. Benissimo Roberto, atmosfera al forum? Atmosfera al forum, circa 7.000 spettatori, per ora a dire la verità si sentono di più le casse del forum rispetto al sento pubblico, che vedremo se poi ti sei messo a rifugio, sento che ti sei messo a rifugio, gli ascoltatori sentitamente ringraziano. Benissimo, grazie Roberto, torneremo al forum in corso d'opera per i primissimi aggiornamenti sulla sfida. Andiamo invece a Roma da Fabrizio Fabbri per commentare questo successo della CEA Roma sulla Vanoli Cremona 79-71, e Roma che continua a starci bene dentro nei quartieri alti della classifica, vero Fabrizio? Sì, però ha faticato tanto tanto, perché per 20 minuti la protagonista assoluta è stata la Vanoli, i primi 20 in cui ha giocato una pallacanestro semplice, efficace, molto leggera, in cui ha messo in enorme difficoltà Roma, scivolata anche a 11 punti di distanza. Poi il rientro dagli spogliatoi ha presentato una CEA Roma diversa, con molta più aggressività, con la possibilità di mettere tanta pressione sulla squadra avversaria, e trascinata dall'MVP assoluto della serata, che è stato Jordan Taylor, 21 punti e 4 assist per lui, Roma è riuscita a risolvere la pratica, però ci ha messo veramente tanto, sono serviti anche un paio di canestri assolutamente al di fuori della logica, uno di Gigi D'Adome ci può stare, uno dell'ultimo arrivato Aden sul suono della sirena per liquidare Cremona, che è uscita comunque a testa altissima. Sentivo che parlavate della partita tra Milano e Siena, a questo punto anche Roma la guarda con attenzione, perché Siena, se dovesse cadere a Milano, riceverebbe Roma lunedì fra 8 giorni a pari punti in classifica, e questo per la CEA sarebbe un risultato chiaramente importantissimo in una stagione che è comunque assolutamente positiva. Ti rubo ancora un istante Fabrizio per un approfondimento sulla prova di Aden, l'ultimo arrivato in casa Roma, che sensazioni ti ha dato a vederlo da vicino? Che sappia attaccare, che abbia l'idea di passare poco la palla, perché come gli arriva nelle mani tendenzialmente guarda il canestro e cerca una soluzione, ma che alla fine può essere utile a Marco Calvani, oltre per allungare le rotazioni, anche per dare maggior pericolosità offensiva. Oggi Roma ha pagato una giornata difficile di Gigi Datome, ha pagato un field goal nei primi due quarti limitato. Aden può essere una risorsa, il classico, la classica infrazione di passi che fa il rookie arrivato dall'America con la partenza a stessa mano, stesso piede, sembra ancora spaesato, però canestro lo sa fare, questo l'impressione è quella che ha dato. E insomma, ci si può lavorare sopra. Grazie a Fabrizio Fabbri, andiamo subito ad Avellino per il colpo della giornata, direi, perché questa vittoria della Sidigas Avellino sulla Foxtown Cantù in attesa del risultato appunto di Milano-Siena è la notizia di giornata. Ben ritrovato Carmelo Prestisimone. Ciao Dario, ben ritrovati, è assolutamente la notizia di giornata. Avellino che dà i numeri, ma sono numeri assolutamente positivi, per battere Cantù, squadra di Eurolega, 63-52 qui al Pala del Mauro, serviva un giocatore da Eurolega e Jaka Lakovic 3 anni fa l'Eurolega l'ha vinta con il Barcellona. Oggi il play sloveno ha realizzato 27 punti, 1 su 3 da 2, 6 su 12 da 3 punti, 5 assist sotto canestro per i campani, è stato monumentale Ivanov con 21 rimbalzi di cui 7 offensivi e 9 punti. Cantù ancora senza Trinchieri, malato a letto con la broncopolmonite, e con Molin in panchina, lo ricordiamo, vice di Ettore Messina Real Madrid, non ha più il tabù d'inizio stagione, problemi ad un gomito, e poi gli altri hanno combinato ben poco. Dignitosi Lönen 11 punti, 1 su 1 da 2, 3 su 6 da 3, Aradori 10 punti, male Mancinelli 4 punti. Io sono con Paul Biliga alla centro di Avellino, che oggi ha giocato una buonissima partita, 7 punti, 6 rimbalzi, ha retto a giocatori verticali come Tajus contro Lönen e anche contro Cousin, se l'è vista sotto canestro davvero bene, insomma ha giocato assolutamente una buona partita. E ti chiedo Paul, giovane, 23 anni, classe 90, ecco, quando avete vinto questa partita secondo me? Beh, questa partita l'abbiamo vinta secondo me quando abbiamo iniziato a fare la zona, con la zona abbiamo saputo metterli in difficoltà, perché prima uomo a uomo comunque riuscivano sempre con gli stessi giochi a ritrovare la palla, e con la zona abbiamo saputo fare il pressing soprattutto sulle rimesse, e poi dietro abbiamo recuperato i palloni, ci siamo gasati con 2-3 triple di Lakovic e lì si è capito che questa partita se la si poteva vincere. Quella di prima era la voce di Cesare Bancotto, il tuo coach, che un po' ti stuzzicava. Ecco, dopo Valli, dopo Tucci, è arrivato Bancotto e ha cambiato faccia a questa squadra. Che cosa vi ha trasmesso, Paul? Bancotto ci ha trasmesso la sua esperienza, che per noi era molto utile in questo momento, perché ha saputo portare energie nuove, concentrazione e determinazione. Questo direi che prima non ce l'avevamo tutti nella squadra, o forse due sì, altri no. Invece l'ha portato a tutto il gruppo, che ci ha aiutato tantissimo. Grazie, grazie mille, ecco, Carmelo, grazie mille a te, a Paul Biliga, e grazie anche perché ci porti la voce di protagonisti nuovi del nostro campionato. Bello davvero il successo di Avellino su Cantù. Passiamo subito a quello invece di Biella su Bologna, ancora più pesante forse in chiave salvezza. Stefano Valenti, ben ritrovato. Ciao, buonasera a voi. E allora Stefano, una Biella che ritrova l'orgoglio e ritrova finalmente anche 2 punti. Sì, assolutamente, con una prova di carattere, di orgoglio, è la seconda vittoria nelle ultime 12 partite per Biella, che non vinceva in casa da 3 mesi. Sembra che a questo punto la squadra di Cancellieri abbia ritrovato un'immagine, un'idea e una nuova organizzazione di gioco con Taylor Rochesti, che ha giocato una partita solida, anche se il marcatore della serata è stato il greco Tsaldaris, anche lui uno dei pezzi del grande rinnovamento, del ribaltone tecnico della squadra, che ha segnato poi alla fine il canestro da 3 punti che ha chiuso il conto. Quindi come dire, un po' stridente questo confronto tra Biella, ultima in classifica, che però gioca una partita sull'orlo dei 90 punti e sembra quasi una squadra tutt'altro che in crisi, e una Bologna che è la Virtus Bologna, che adesso si nasconde dietro questo nuovo nome dello sponsor polacco Okno Plus, quasi abbastanza difficile, è una vita di serramenti, qui serramenti però difensivi almeno oggi non hanno funzionato. Qualche chiavistello ci vorrebbe, insomma. Sì, perfetto. Si ritrova con un più 4 su Biella, ha salvato la differenza canestri rispetto all'andata, ed è l'unica nota positiva di una giornata che ha visto un nuovo infortunio per Giuseppe Poeta, che ha tenuto botta finché ha potuto, ma poi non ha giocato tutto il secondo tempo. Si parla di stiramento e allora la situazione sarebbe veramente grave per la Virtus, che è arrivata a sua volta alla nona sconfitta nelle ultime 10 partite. Eh sì, davvero un'annataccia per le V-nere. Grazie Stefano, ci ritroviamo domenica prossima. Prima della pausa guardiamo però il tabellino di questo Brindisi Sassari al Fulmicotone, come già era stato del resto in Coppa Italia, 93-95 per i sardi, che piazzano nel quarto periodo la rimonta decisiva. Travis Diner 29 punti, 7 su 13 da 2, 4 su 8 da 3 punti, 3 su 4 ai liberi, 4 assist per una valutazione di 30, 30 anche la valutazione del cugino Drake, che non ha voluto certo essere da meno, 24 punti, 7 su 10 da 2, 2 su 5 da 3, 4 su 6 ai liberi, 9 rimbalzi, 3 perse, 3 recuperate, 2 assist, neanche fosse il pivot, Drake Diner, che però il gusto del rimbalzo ce l'ha da sempre, non bastano per Lenel Brindisi. Indisi, pensate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uomini in doppia cifra con 16 punti e 5 rimbalzi di Cedric Simmons per portare a casa questo successo. Palla spicchi. Eccoci qua ancora insieme. Allora, uno sguardo anche al tabellino di Pesaro Reggio Emilia con la vittoria dei reggiani fuori casa 68-65, 20 punti per Donnell Taylor e 16 per un Andrea Cinciarini sempre più solido, che unisce anche 5 rimbalzi e 4 assist alla sua prestazione. Per quanto riguarda Reggio Emilia, a Pesaro non bastano i 23 punti di Rock Stipcevic e 22 per Barbour per mantenere a casa dei i 2 punti. Benvenuto al nostro prossimo ospite, Pino Sacripanti, coach di Caserta. Ben trovato, coach. Buonasera a tutti, buonasera. Beh, insomma, oggi sconfitta a Varese, coach, però come al solito la sua Caserta non ha mollato fino all'ultimo e quasi quasi ci scappava il colpaccio. Sì, siamo andati vicini perché siamo arrivati a meno 2-4 minuti dalla fine. C'è stata poi quel pallone che è così un po' sporco in giro, raccolto da Sakota e messo da 3 punti all'ultimo secondo dei 24. Forse quell'episodio poteva cambiare la partita. Noi siamo andati sul campo di Varese, abbiamo fatto secondo me una buonissima gara a livello difensivo. In attacco, nel momento che siamo riusciti a fare un po' più canestro da fuori, gli siamo arrivati veramente vicini. Spiace perché il risultato ci condanna, nello stesso tempo credo che sia stata comunque una prestazione abbastanza solida. Eh sì, vista in TV glielo posso sottoscrivere, coach. Una prestazione che è arrivata in una settimana ancora più importante del solito per Caserta, perché è arrivato un nuovo proprietario della Juve Caserta, Gianluca Galimberti, imprenditore che vive tra Londra e Bologna, che ha rilevato il 51% della società. Ecco, coach, queste incertezze di questi ultimi mesi quanto hanno influito sul rendimento della squadra, che pure in realtà è stato ottimo e ben al di sopra delle aspettative, ma è riuscito a proteggere il gruppo da queste tensioni? Ma insomma, è chiaro che a lungo andare poi il barile un pochino veniva raschiato fino in fondo, però noi siamo stati con pochi giocatori, abbiamo lasciato a casa i due americani dall'inizio anno, quelli che ci sono rimasti sono molto compattati e hanno lavorato molto bene. Nell'ultimo periodo qualche infortunio di troppo, qualche influenza di troppo ci ha portato anche a qualche sconfitta di misura veramente all'ultimo canestro, che potevano darci un campionato ancora più bello. La squadra è rimasta sempre un po' in sospeso per questa situazione societaria indiscutibilmente molto difficile, però nello stesso tempo sono stati molto professionali. Adesso, con l'arrivo per fortuna di Gianluca Galimberti, speriamo veramente di aver risolto tutti i guai di Caserta e che si possa mettere a posto quest'annata per poi programmare il futuro, quindi c'è un po' più di serenità da parte di tutti. Eh beh, insomma, speriamo che con fondamenta più solide si possa giocare anche con la testa e l'animo un po' più libero. Grazie coach Sacripanti per essere stato nostro ospite questa sera qui a Palla Spicchi. Guardiamo al volo rapidamente il tabellino di Montegranaro Venezia 88-64, bel successo interno dei marchigiani con 22 punti di Daniele Cinciarini. Beh, oggi è festa in casa Cinciarini, è capitato spesso anche quest'anno. 25 per Christian Burns, che unisce anche 12 rimbalzi per un 39 di valutazione. Per quanto riguarda Venezia invece 15 punti per Tim Bowers e altrettanti per Yacuba Diawara, una Venezia che tira appena col 21% da 3 punti. Ben trovato a Carlo Genta, domani lo ricordo alle 14 siamo tutti convocati da Carlo, eh? Sì, Dario, tutti convocati domani alle 14 per tutta la settimana, naturalmente, di cosa dire ce ne saranno molte, non solo basket. Assolutamente, già immagino qualche un altro un po' approfondimento sul tema Cassano, ma bando al calcio, che ti aspetti questa sera da Milano-Siena? Ma è la solita partita da cui ci si attendono dei segnali. Per Milano lo squillo è arrivato dalla partita di andata. Poi sappiamo come si sono sviluppate le cose. Chiaro che sono prove generali di playoff. Siena mi sembra più forte, certamente è in questo periodo è cresciuta molto di più rispetto ad una Milano che ha avuto molti cambi, che ha avuto molta confusione, che ha avuto molte difficoltà, che comunque reduce da una striscia di sconfitte, di vittorie esterne importante, rotta a Reggio Emilia. Stasera si tratta di riannodare i fili, tutti si aspettano che questa sia la solita finale scudetto, io non ci metterei le mani sul fuoco per il momento, però sarà importante secondo me soprattutto per Milano la partita di questa sera, perché di Siena sappiamo già molto di più. Eh sì, anche perché poi in base al posizionamento finale nella regular season non è detto che queste due squadre vadano a non incontrarsi prima, anzi ad oggi è l'ipotesi più probabile. E intanto c'è una Cantù il cui motore batte sempre più in testa, no? Quella famosa continuità sembra ormai persa e si procede un po' a vista, in attesa che torni anche in panchina coach Trinchieri, che non è poco. Sì, ma sai, Cantù, io ho sempre la stessa impressione, cioè ho l'impressione che così la magia, la chimica, l'emotività di questa squadra si stia un po' spegnendo. La sensazione è quella della fine di un ciclo che comunque è stato vincente per quel che si è potuto. È stato un ciclo bellissimo, è stata a lungo la squadra più bella del nostro campionato nel rapporto tra la qualità dei giocatori che aveva e il gioco che riusciva ad esprimere, però la mia sensazione è che non solo per la partenza di Marco Civili, che comunque è un giocatore fondamentale per Cantù, la sensazione è che questa squadra sia arrivata un po' all'ultimo ballo. Inutile far finta di no, ma è giusto così, no? I cicli finiscono, le squadre finiscono. Trinchieri ha un'altra occupazione che lo attende, questa non è una giustificazione, però è chiaro che così la vena di magia di questa squadra mi sembra che sia esaurita. Benissimo Carlo, è vero, probabilmente è così, staremo a vedere se i canturini ci smentiranno. Intanto ci ritroviamo domani alle 14 con tutti i convocati e Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Dario, grazie. Vogliamo subito al forum per altri 30 secondi da Roberto Nardella, siamo a circa metà del primo quarto, Roberto. E allora, torniamo qui al forum, la situazione è decisamente più rumorosa in questo momento, partenza lampo di Milano subito. 7-2, Siena però è già tornata sul 7-4, va in zona d'attacco a subire anche fallo. Milano ha provato subito ad affondare il piede sull'acceleratore, però per ora si profila una gara equilibrata, anche se ovviamente non siamo neppure al giro di boia del primo quarto. Grazie Roberto Nardella, chiudiamo con il professor Flavio Tranquillo, ben ritrovato Flavio. Buonasera. Beh, ti stuzzico un attimo sulla zona salvezza, perché Avellino, Pesaro, Biella, Montegranaro, in modo diverso e con risultati alterni, ma stanno dando segni di vita rispetto a dei momenti in cui più di una di queste squadre sembrava aver staccato la spina. Che finale di stagione ti aspetti da questo punto di vista? Imprevedibile. Aggiungerei Bologna, soprattutto dopo il risultato di oggi, indipendentemente dalla classifica, perché comunque il trend è quello, e non è detto che finisca qui, perché la situazione è tale per cui le cose cambiano rapidamente, chi avrà più benzina da tutti i punti di vista nelle ultime 6-7 partite si tirerà fuori, chi la finisce troppo presto potrebbe essere invece tirata dentro. Interessante invece, siamo già nella parte sinistra della classifica, sempre più interessante il torneo di Reggio Emilia, che sta dando anche continuità a risultati pesanti. Decisamente, squadra con identità, squadra che ha creato un asse di ferro tra città, ambiente, staff tecnico e squadra, con una quantità di talento diffusa che in un torneo diverso probabilmente non basterebbe per arrivare fino a lì, ma che in questo torneo è più che sufficiente se poi è messa assieme a questo blocco di ferro per fare anche qualcosina di più della decenza. E infatti secondo me Reggio Emilia può puntare ai playoff proprio abbastanza tranquillamente. Beh sì, speriamo proprio di ritrovarli i reggiani nei playoff, sarebbe una bella sorpresa per questa neopromossa. Grazie Flavio, a te sicuramente invece ti ritroviamo domenica prossima. Sarà fatto. Grazie mille a Flavio Tranquillo. Giusto il tempo per i risultati della Lega 2, sesta di ritorno, Trieste Capodorlando 91-69, 78-77 per Iesi su Forlì, Pistoia Imola 70-61, Barcellona Casale Monferrato 77-79, Trento Bologna 80-67, 84-88 tra Beroli e Scafati. L'8 marzo invece Verona-Brescia, il riposo oggi toccava a Ferentino. Io mi fermo qui, un grazie a Roberto Scaltritti in regia, a Giorgio De Luca in redazione, rimanete ad ascoltarci perché tutti gli aggiornamenti anche sul calcio nelle prossime edizioni di GR24.